nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata gentili ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi arrivano anche da Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli che sono in redazione con me e Roberta Frisani che è in regia. Per commentare o fare domande vi ricordo che potete scrivermi sulle pagine Facebook Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, sulla mia personale Giampaolo Musumeci, potete cinguettare all'account Twitter Nessun Luogo 24 ovvero Giampaz, e se avete un telefonino sotto mano gli SMS prego al 349-238-6666. Allora, ancora una volta l'emergenza immigrazione a Calais tiene banco. Oggi anche Le Monde vi dedicava la prima pagina ricordando i fatti che noi stessi abbiamo ricordato e ricapitolato nella puntata di ieri, e allora ripartiamo proprio dalla città costiera francese. And David Cameron warns Britain will not become a safe haven for migrants in Calais after hundreds more tried to reach England overnight. This is very testing, I accept that, because you've got a swarm of people coming across the Mediterranean, seeking a better life, wanting to come to Britain, because Britain has got jobs, it's got a growing economy, it's an incredible place to live. But insomma, un posto incredibile in cui vivere, dove c'è una vita migliore, dove c'è lavoro, e questa sarebbe l'incredibile forza centripeta che il Regno Unito continua ad avere e a suggerire ai tanti migranti che tentano di raggiungere appunto il Regno Unito. Dove inizia il loro viaggio europeo? Inizia in Grecia, inizia nel sud Italia e poi prosegue attraverso la Francia fino appunto a tentare di arrivare al Regno Unito. Però anche se in passato, nei mesi scorsi, Cameron aveva fatto discorsi di chiusura del Regno Unito rispetto non soltanto all'immigrazione ma anche alla distribuzione dei rifugiati, quelle quote che i paesi di 28 paesi dell'Unione Europea avevano deciso di ripartirsi. La questione si è poi arenata sui 32.000, se ne riparlerà dopo l'estate. Cameron ha continuato su quella linea di chiusura. Lui mesi fa, prima delle elezioni, aveva detto: io non prendo nessuno, mando una nave militare ad aiutarli, ma poi non sbarcheranno certamente in Regno Unito. Già a Luna vi avevo fatto sentire la voce del professor Andrea Mammone, che insegna storia dell'Europa moderna all'Università di Londra. Ridò il benvenuto, ben ritrovato al professor Mammone. Professore? Professor Mammone, mi sente? Niente, non mi sente, proviamo a richiamarlo. Allora, dicevo, parole molto dure quelle di Cameron, che peraltro per scoraggiare, stiamo per adesso alle dichiarazioni, vedremo se poi prenderanno corpo anche politico e fisico, per scoraggiare tutte queste migliaia di migranti che aspettano anche per mesi la possibilità di entrare in Europa, Cameron ha detto che i migranti senza documenti saranno espulsi dal Regno Unito, così che la gente sappia che noi non siamo un rifugio. Nel frattempo però Calais, e in particolare l'Eurotunnel, il tunnel sotto la Manica, continua a essere il luogo privilegiato per questi, tra virgolette, assalti al Regno Unito. Un'altra delle tecniche è invece quella di tentare di infilarsi nei camion che poi vengono imbarcati nel porto di Calais. Di recente si è riformato un campo chiamato la Jungle, The Jungle, cosa che ricorda quello che era accaduto anche alcuni anni fa, prima che il campo venisse smantellato e che io visitai appunto un paio di anni fa. Ma allora abbiamo recuperato il collegamento con Andrea Mammone, a cui ridiamo il buongiorno e benvenuto, professore. Buongiorno. Eccoci, allora, già alle 13 ne abbiamo parlato molto brevemente, ma Cameron ha pronunciato parole molto dure. Quanto l'hanno stupita, professore, le parole così dure di David Cameron? In realtà poco. Mi hanno stupito poco, perché quello che noto, diciamo, negli ultimi anni, in particolare negli scorsi mesi, è una rinascita forte di un discorso nazionalista in Europa. Cioè, in Europa, nell'Europa Unita, nella patria dell'integrazione tra le nazioni, oggi vediamo che c'è una tendenza in realtà a una rinascita, a una prevalenza degli stati-nazione. E questo nazionalismo a volte si proietta proprio nell'intera dimensione europea. Infatti abbiamo questo euronazionalismo tedesco da un lato, e poi ovviamente in ogni singolo paese più o meno ci sono questo forte desiderio isolazionista, da soli si sta meglio. Camerun, come lei diceva precedentemente, la sua campagna elettorale è stata noi ridiscuteremo i termini della membership con l'Unione Europea, sì, e così via, e comunque l'immigrato non viene visto come... L'immigrato, sia chiaro, non solo questi al di fuori dell'Unione Europea, cioè terzo mondo e così via, ma anche gli immigrati di altri paesi europei non vengono visti di buon occhio da parte dell'opinione pubblica. Sì. Però ecco, politica, professore, di fronte a questa Gran Bretagna che sembra chiudersi, ma è un fatto, come lei giustamente ricordava, è una linea rossa che unisce vari paesi europei in cui destre nazionaliste e spesso xenofobe stanno guadagnando consensi. Penso al caso dell'Ungheria, lì c'è la costruzione del muro al confine con la Serbia, per esempio. Ma questa Gran Bretagna che sembra chiudersi e che non ha nemmeno accettato le quote di redistribuzione, scusate, dei rifugiati, è un paese che in realtà potrebbe accogliere più migranti o no? Sì. Sì, in realtà tutti i paesi europei potrebbero accogliere più migranti, anzi se ci fosse una ridistribuzione equa dei migranti non saremmo qui a parlare di tutte queste cose, perché in realtà tutto quello che in realtà è stato detto da Camerun, dal ministro degli interni inglese, da quello francese, in realtà sono slogan per una parte dell'elettorato, ma in realtà... termini pratici non si fa niente, cioè, sappiamo tutti come è impossibile bloccare completamente le linee è impossibile bloccare queste persone, perché è inutile che si cerca di fare propaganda dicendo noi andremo lì, Camerun ha detto che bisogna stabilizzare questi paesi, ma come? È una cosa alquanto impossibile, ci sono delle guerre in corso. L'Occidente ha contribuito in alcuni casi fortemente a queste guerre, all'instabilità intera di alcune aree del pianeta, per cui è impossibile, cioè le prospettive di vita da poveri, diciamo, in Europa a quelle di forse morti nei propri paesi fa pendere la bilancia da un lato, e i paesi europei potrebbero ancora una volta accettarle. Il paradosso in questo contesto, secondo me, è rappresentato dal caso dell'Italia e della Grecia, mi spiego meglio. Sì. Cioè l'Italia e la Grecia, nonostante tutto, continuano ad accogliere questi migranti. Mare Nostrum era un'operazione che fondamentalmente serviva proprio a questo, cioè salvare le vite nel Mediterraneo. Dal mio punto di vista, Lampedusa sono in maggioranza degli eroi. La Grecia, nonostante tutto, continua a far entrare queste persone, ad accoglierle. Beh, questi sono gli stessi paesi che poi vengono immediatamente additati quando non rispettano lo 0,x nel debito pubblico, mentre i paesi ricchi, ma dalla Gran Bretagna all'Australia, quindi un caso molto più lontano, spingono tutti fuori perché la ricchezza bisogna preservarla, tra virgolette, sì. Cosa impossibile tra l'altro. Fra l'altro, quella che continuamente, purtroppo ancora anche nei nostri media, viene definita un'emergenza, dobbiamo renderci conto che è una situazione strutturale, perché il flusso dei migranti ormai è costante e continuo. È la stessa situazione di Calais, insomma, fa saltare sulla sedia a sentire leggere titoli che parlano di emergenza Calais, quando appunto è da tanti anni che si vive questa situazione. L'ultima domanda per lei, professor Mormone. Cameron ha detto che provvederà a espellere gli immigrati senza documenti. Se attuasse questa politica, secondo lei che conseguenze potrebbe avere sulla società inglese? Ah, qualcuno sarà sicuramente contento, a partire dalle UKIP e a partire da alcuni di questi tabloid, ma anche, diciamo, parte di giornali come il Telegraph e così via. In realtà noi bisogna dire che queste persone poi hanno un po' la puzza sotto il naso e soffrono pensano di essere dei grandi politici, cioè, in realtà dalla storia non si impara niente. Noi in Italia sappiamo benissimo quanto è difficile in realtà prendere queste persone e togliere fuori dal paese. In alcuni casi non hanno i documenti, ma vengono rispedite dove? In alcuni casi è anche difficile capire dove rispedirle. Esatto, oltre al fatto che è estremamente costoso. A quello non c'è dubbio. I rimpatri, ad esempio, fatti via aerea sono un costo un costo notevole. Grazie professor Mammone, ci risentiremo, ho idea, da qui nelle prossime settimane di Nessun Luogo è Lontano. 349-238-6666 per i vostri messaggi che già iniziano a piovere, contenuti accesi, toni sanguigni, però ripeto, se volete che io li legga dovete evitare assolutamente il turpiloquio, perché non è questo il programma in cui lo ammetto. Però uno lo posso leggere: il nazionalismo, scrive un ascoltatore, è l'unico rimedio contro xenofilia e umanitarismo peloso. E ancora, chi taccia il professor Mammone di pontificare, ma chi l'ha detto, più migranti vale tanto quanto meno migranti, pontifica e basta, riferito appunto al nostro ospite. Questo ci dà un po' il, come dire, il polso di parte degli ascoltatori sulla questione immigrazione, che lo ricordo forse è una delle questioni su cui è più facile scatenare la pancia. Cerchiamo di stare però ai numeri, ai fatti, a quello che accade, perché sennò la riflessione perde assolutamente di senso. Allora, ci sono due piani, l'abbiamo capito, c'è quello politico e c'è quello sociale. Eravamo a Londra, andiamo a Parigi con Marco Moussanet, che è corrispondente del Sole 24 Ore dalla capitale francese. Marco, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, c'è stata una reazione politica da parte di Parigi dopo queste pesanti, forti parole di David Cameron, o tutto tace? No, non c'è stata alcuna reazione, anche perché interesse della Francia avere e conservare dei rapporti buoni con la Gran Bretagna ed evitare dei contrasti troppo forti su questa vicenda in particolare. Quindi no, non ci sono state reazioni di alcun genere. E mentre non ci sono reazioni, dall'altra parte invece i due governi collaborano, in particolare a Calais, perché se ho ben capito Calais ha chiesto più soldi per erigere ancora più muri, più reti di protezione. Ma sì, a Calais ci sono ovviamente dei costi oggettivi di protezione e di controllo dell'area del terminal di Eurotunnel, che non va dimenticato, un'area enorme, sono 650 ettari con un perimetro di 28 chilometri, quindi è chiaro che il suo controllo, peraltro impossibile in modo puntuale, ha comunque dei costi molto alti, costi che vengono affrontati insieme dai governi francese e inglese. Proprio due giorni fa c'è stato un incontro tra i due ministri dell'interno, in occasione del quale appunto Londra ha stanziato altri 10 milioni come contributo alla, diciamo, protezione del sito. Sul terreno i rapporti tra i due paesi sono di collaborazione attiva. È evidente che poi ci sono dei mal di pancia da una parte e dall'altra, magari appunto non espressi ufficialmente, non confessati, che trapelano ovviamente sui giornali. Sì. Da parte inglese si ritiene che la Francia faccia troppo poco per respingere gli assalti dei migranti, e comunque troppo poco rispetto a una politica di migrazione che si vorrebbe un pochino più severa, e da parte francese si osserva che il diciamo modello sociale inglese è un modello che oggettivamente è appetibile per i migranti, peraltro molti dei quali sono anglofoni, ma è chiaro che un paese in cui non è obbligatorio portare con sé i documenti di identità, in cui trovare un lavoro nero è molto semplice, soprattutto nelle città, è ovvio che rappresenta una attrazione oggettiva. Quindi certo, ci sono delle discussioni su questi temi tra i due paesi, ma entrambi come dire, si sforzano di gestire nel modo più collaborativo possibile questa situazione. Chiarissimo. E l'altra domanda invece, Marco, riguarda se vi siano tensioni sociali, se in qualche modo la società francese si stia reinterrogando sul fenomeno dell'immigrazione. Io un mese e mezzo fa, due mesi fa, sono passato da Parigi e sono rimasto costernato nel vedere i ponti sotto, vicino al quartiere di Barbès, con tutte le tende degli afghani, ed erano frutto poi delle ultime ondate di arrivi nel sud Italia, che poi si spostano in Francia e poi appunto tentano di arrivare a Calais e poi Londra. Che aria tira nella società francese rispetto agli ultimissimi eventi? Ma sicuramente c'è una diciamo una crescente sensibilità nei confronti dell'argomento, che era passato un pochino in secondo piano negli ultimi anni, superato dai timori e dalle preoccupazioni legate alla lunga crisi economica, in particolare all'aumento della disoccupazione. Oggi c'è di nuovo c'è una nuova sensibilità da parte della popolazione francese nei confronti dell'argomento, ovviamente alimentata anche dalle campagne, dagli slogan dell'estrema destra, del Fronte Nazionale, che non a caso proprio a Calais, nella zona comunque nella regione del Nord Pas de Calais, di cui Calais fa parte, raggiunge i consensi più alti, e non a caso la regione in cui la leader del partito, Marine Le Pen, ha deciso di candidarsi alle regionali del prossimo dicembre. Sì, sì. Quindi sicuramente sta ritornando un malessere profondo nella società francese rispetto a questo argomento, anche se non dimentichiamo che segnali di intolleranza più forti riguardano storicamente e tradizionalmente i migranti provenienti dal Maghreb, piuttosto che quelli provenienti dall'Africa centrale o dall'Africa dell'Est, che tradizionalmente sono ritenuti meno problematici dal punto di vista del radicamento sul territorio, del proselitismo e quindi degli eventuali risvolti anche di carattere, sì, che riguardano il radicalismo islamico. Grazie Marco Mussone per questa fotografia, la prima più strettamente politica, la seconda invece più sociale, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Buona giornata, buon lavoro Marco. Buon lavoro a voi, grazie. 349-238-6666 per i vostri messaggi. C'è Claudio da Torino, per esempio, che dice: se i disoccupati italiani occupassero i posti di lavoro degli immigrati, non avremmo né disoccupati né immigrati. Poi c'è Sandor, ad esempio, che ricorda il muro dell'Ungheria con la Serbia di 175 chilometri, quello appunto in costruzione, che andrà nelle intenzioni del governo di Orban a contrastare l'immigrazione lì su quella rotta, la rotta balcanica tra Serbia e Ungheria. Purtroppo però, ma questo è un mio commento, i muri nella storia riguardanti l'immigrazione ci hanno insegnato che non si fermano le rotte si allungano, diventano più pericolose, diventano più costose e più soldi finiscono in mano ai trafficanti di migranti. Poi c'è invece chi, in preda al più totale scoramento, mi scrive che parlare è bello, accogliamoli, ma cosa gli faremo fare? Allora, poi ce ne sono tanti altri, continuate a scrivermi 349-238-6666. Ieri però molti altri ascoltatori, siccome facevo menzione di un'altra rotta che si è chiusa negli anni, che era quella spagnola, fondamentalmente adesso le due grandi rotte sono quelle che, una quella che passa dall'Africa centrale e poi prevede la partenza dalla Libia con arrivo nell'Italia del Sud, la seconda che prevede l'arrivo in Grecia e poi da lì molto spesso a piedi, se non con altri mezzi, attraverso i Balcani, quindi Grecia, Macedonia, Serbia, Ungheria, Austria, a volte poi Slovenia, Italia, oppure dall'Austria verso la Germania, quindi verso nord. Queste fondamentalmente al momento sono le due grandi rotte, ma un tempo, nel 2006, ero stato in Mauritania proprio per studiare quella rotta, si partiva dal Senegal, dalla Mauritania con le piroghe, si arrivava alle Isole Canarie, si arrivava a Tenerife, oppure si tentava l'assalto a Ceuta e Melilla, che sono quelle due enclave spagnole, città autonome spagnole in territorio marocchino, che anche di recente hanno visto assalti, ma che ormai sempre più protette e cinte da alti reti, fili spinati e telecamere termiche, non vedono più assalti. Che cosa ha fatto la Spagna per contenere l'ondata migratoria? Abbiamo raggiunto Elena Gonzalez, che è una giornalista che è di base in Marocco ma collabora con svariati media spagnoli, e a lei abbiamo chiesto innanzitutto appunto cosa è successo negli ultimi anni nelle politiche e nelle rotte migratorie che riguardano la Spagna. Le rotte in Africa stanno cambiando. Questo avviene per via della politica europea, che sta spingendo i migranti su altre rotte, a volte per loro anche molto più pericolose. Per esempio, la Spagna ha siglato un accordo con la Mauritania e il Senegal per dislocare più forze di polizia sui confini, e pertanto le imbarcazioni che eravamo soliti veder partire da lì nel 2005 e nel 2009 non ci sono più. I migranti devono trovare delle alternative e passano dal deserto. Negli ultimi anni la tratta abituale comportava l'ingresso in Marocco dall'Algeria per poi provare a scavalcare le recinzioni a Melilla. Forse vi ricordate le immagini di quanti entravano a Melilla? Ebbene, da febbraio non avviene più così. E questo perché lì c'è molta più polizia negli ultimi mesi, per cui devono passare via mare. Nell'ultimo anno i migranti si sono diretti a Tangeri e questo per due ragioni: la polizia sui confini e per il fatto che sono circolate delle voci l'anno scorso che avrebbero aperto i confini, ovvero che la polizia non avrebbe sorvegliato le coste del Marocco per alcuni giorni. In quei giorni 1.300 persone hanno raggiunto le coste spagnole. Non sappiamo esattamente perché. Alcune persone sostengono che il re del Marocco sia stato fermato dalla guardia costiera e abbia quindi deciso di aprire la via del mare. E quindi molte persone adesso stanno arrivando a Tangeri perché non possono provare dalle recinzioni e devono provare via barca, il che è molto più rischioso per la loro vita. E come avete sentito, Elena Gonzalez è una che tocca molto spesso quei punti nevralgici, ex nevralgici, sempre meno dell'immigrazione, anche se la situazione e le tensioni a Ceuta e Melilla sono sempre presenti, così come a Tangeri, che è lì quel porto di fronte alla Spagna e che quindi la tanto agognata Europa permette ai migranti di vederla lì a portata di mano, eppure così lontana. Fra l'altro Ceuta veniva chiamata, mi riferivano alcuni migranti quando mi ci recai nel 2010, la dolce prigione, perché è vero che formalmente sei in territorio europeo, ma non aderendo a Schengen ed essendo così distante fisicamente dalla Spagna, quindi dalla penisola, dal continente, si rivelava poi una vera e propria prigione. Quindi dalle parole di Elena Gonzalez si capisce che uno dei punti fondamentali nella politica spagnola è stato l'accordo con i paesi d'origine per avere più controllo sulle partenze. Ascoltiamola ancora. Esatto, è successo con Senegal e Mauritania ed è quello che stanno cercando di fare anche con il Marocco. Questo spinge i migranti a dirigersi su altre strade, Tunisia e Libia. In Tunisia non più, perché nessuno può rimanere se non ha un biglietto di ritorno e quindi non si può più entrare dalla Libia in Tunisia. E quindi molte persone stanno cercando di passare dalla Libia ora, che è molto più pericoloso rispetto al Marocco, specie se si considerano le politiche sull'immigrazione del Marocco, che l'anno scorso ha deciso di concedere 70.000 permessi di soggiorno. Ma ancora queste persone non hanno un lavoro qui e non possono costruirsi una vita. Devono pertanto andarsene e il sogno dell'Europa è costante nei loro pensieri. Ed è interessante notare come le geografie delle rotte migratorie siano cambiate negli anni e a volte siano cresciute di decine, centinaia, di migliaia di chilometri e a volte si debbano attraversare più confini. Allora badate bene, ogni volta che c'è un confine in più da attraversare, allora lì sono soldi che vanno alle organizzazioni che gestiscono questi viaggi. E a volte, anche inconsapevolmente, alcune politiche europee vanno ad alimentare proprio questo business, perché non dobbiamo pensare che la costruzione di un muro vada a bloccare i migranti. Un caso storico molto molto eclatante: tra Grecia e Turchia fu costruito il muro a fianco al fiume Evros, nell'unico tratto di confine che non era segnato dal fiume, alcuni chilometri di muro. Ebbene, questo, la costruzione di un muro che è costata svariati milioni di euro all'Europa, ebbene, non ha fermato i migranti, perché semplicemente i migranti adesso passano più a nord attraverso le montagne bulgare, rotta più lunga, trafficanti bulgari da coinvolgere, rotta più costosa e più morti, perché le montagne lì in inverno sono gelate e i migranti rischiano di più. Il problema è che è difficile fermare questo fenomeno, si può gestire, ma chiamarlo emergenza ancora una volta è sbagliato. Il lessico forse aiuta a comprendere meglio, è strutturale, dobbiamo farci i conti, possiamo cercare di gestirlo al meglio. E vediamo invece come la borsa ha gestito la finanza quest'oggi. Sul luogo è lontano. Ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano. Siamo passati da Calais, poi a Londra, poi ancora a Parigi per raccontare quello che sta accadendo in tema immigrazione, e poi siamo finiti in Marocco per raccontare come la Spagna, guardando a quel paese nordafricano che una volta era di partenza, ha gestito, sta gestendo il problema. A volte lo ha fatto anche in maniera discutibile, discussa, perché ha fondamentalmente negli mesi scorsi legalizzato una pratica che era già in costume, era già in uso da parte della Guardia Civile, cioè il respingimento senza identificazione, che è una pratica assolutamente illegale. Ovviamente c'è stata una levata di scudi di tante associazioni. Ho solleticato Elena Gonzalez proprio su questo tema. Sì, è vero, è una nuova politica in Spagna e molti stanno denunciando questa decisione perché è di fatto illegale secondo il diritto internazionale. Al momento hanno uffici per i rifugiati in Siria, ma non per quelli che provengono dall'Africa. Questo è un ulteriore motivo che spinge le persone a usare le imbarcazioni e non a provare attraverso le recinzioni. Yeah. 349-238-6666 è il numero che ha composto anche Claudio da Roma, che ci chiede: anziché rischiare la vita per fuggire, non potrebbero rischiarla per cambiare il proprio paese? E del muro israeliano non si parla mai, non è al momento effettivamente il nostro focus, il muro tra Israele e Palestina. Però, per rispondere alla sua domanda, gentilissimo Claudio, molti rischiano la vita per cambiare il loro paese. Intanto la geografia del migrante è vastissima, perché se si pensa a qualcuno che scappa al nord della Nigeria o qualcuno che scappa da Mogadiscio in Somalia o qualcun altro che scappa dalla zona di Herat in Afghanistan o ancora da Aleppo in Siria, ebbene, siamo di fronte a storie diversissime. È anche vero che molti di questi rifugiati non hanno scelta. Io ne ho incontrati tanti anche recentemente negli ultimi mesi, e la frase più comune che mi è stata riferita è stata: io sono già morto nel mio paese, quindi affronterò i rischi del viaggio. E poi c'è un altro punto che abbiamo toccato con Elena Gonzalez, giornalista spagnola di base in Marocco. Ultimamente il Marocco ha legalizzato la presenza di 70.000 immigrati. Ho chiesto alla Gonzalez se questo potrebbe essere un cambio di prospettiva anche per un paese storicamente considerato come punto di partenza, e invece la domanda è: ma non è che il Marocco potrebbe diventare un punto d'arrivo per tanti immigrati? Sì, ma bisogna considerare che in Marocco il tasso di disoccupazione è del 20% e in aggiunta non hanno un lavoro regolare, non hanno un contratto. In molte regioni poi le persone che provengono dall'Africa non sono ben viste. In Tangeri c'è per esempio un quartiere chiamato Boukaleb, dove gli immigrati sono soliti vivere occupando le case. Le persone della zona si lamentano, sostenendo che non assorbono i costumi e le abitudini della nazione e le sue regole. Quindi è difficile stabilirsi qui, non hai lavoro e in più conservi il sogno dell'Europa. E questa era Elena Gonzalez, giornalista spagnola di base in Marocco, esperta di immigrazione. Intanto su Twitter l'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione ricorda che la popolazione dell'Unione Europea ha bisogno dell'immigrazione perché è una popolazione in calo. Fra l'altro, se andiamo a guardare i dati italiani, il saldo di bilancio è fondamentalmente neutro, perché sono tanti italiani che lasciano il nostro paese per cercare fortuna altrove e formalmente sono immigrati anche loro, e altri invece immigrati che si installano nel nostro paese. Anche se è bene ricordare che dei 170.000 arrivi dell'anno scorso nel sud Italia, la maggior parte di essi poi puntavano al nord Europa, fra cui i paesi come l'Inghilterra, ma non solo. Sempre al 349-238-6666, tra chi lancia strali contro l'immigrazione e spera un'Italia chiusa, un'Europa chiusa e arroccata sulle sue frontiere, c'è chi dice invece appunto immigrazione grande opportunità economica. Chi studia proprio questi temi è Alfonso Giordano, docente di sviluppo sostenibile e flussi migratori alla LUIS. Buongiorno professor Giordano, benvenuto. Buongiorno a lei e ai ascoltatori. Benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Grazie a lei. Allora professore, in parte la giornalista spagnola ci ha raccontato alcuni casi abbastanza emblematici del perché la Spagna ha risolto, ma direi tra virgolette, il problema, visto le criticità, no, che abbiamo ascoltato. E mettiamo il grandangolo, come spesso amo dire, e guardiamo facendo un passo indietro. Come ha fatto la Spagna? Su quali politiche ha fatto leva? Beh, insomma, bisogna ricordare un po' di fatti storici. Nel 2002 ci fu un'occupazione dell'isoletta di Perilla con una contestazione tra polizia marocchina e quella spagnola. Poi nel 2005 ci sono state quelle tragiche, diciamo, conseguenze sulle enclavi iberiche nel territorio marocchino, dove alcuni centinaia di migranti furono oggetto di spari sia dalla polizia marocchina che di quella spagnola. Insomma, una serie di eventi che hanno fatto capire ai due governi che conveniva probabilmente cooperare, e quindi sono nati una serie di accordi che si andavano a inserire su un'altra serie di questioni spinose, come appunto la gestione dell'enclavo oppure anche la questione del Sahara occidentale. Quindi dal 2006 in poi ci sono degli accordi da Spagna e Marocco che in realtà hanno dato qualche risultato nel controllo delle frontiere. Sì. Poi c'è anche un sistema che si chiama SIVE, un sistema integrale di vigilanza esterna. In realtà la Spagna ha esternalizzato il controllo delle proprie frontiere spostandolo verso il Marocco. Questa però è una parziale, diciamo, spiegazione, perché serve solamente a spiegare appunto che sul territorio c'è un maggior controllo. Il punto è che i flussi migratori, come si sa, sono un po' come dire delle onde d'acqua, vanno dove c'è meno resistenza. Quindi oltre al controllo sul territorio lì c'è stata anche la falla che si è aperta in Libia, cioè con la caduta del regime di Gheddafi e quindi con il caos che si è creato. Quella è una rotta che è stata preferita sia per questioni, diciamo, di ingestione dello Stato, nel senso di uno Stato fallito, e sia anche perché in parte quelle rotte sono anche più battibili dal Centrafrica, e dobbiamo ricordare che la maggior parte dei flussi migratori arrivano appunto dall'Africa subsahariana e quindi passano, sì, il Sahara molto difficoltosamente, e poi arrivano sui tre punti che possono essere appunto la parte occidentale, orientale o quella centrale. Quella centrale è quella più battuta, ed è più battuta anche e soprattutto in questo momento perché non c'è, come dire, un muro di opposizione che in parte si era creato con quell'accordo tra la Libia e l'Italia. Sì. Naturalmente non sto dicendo che questa è la soluzione, perché evidentemente non lo è, perché possiamo solamente un po' tamponare il problema in qualcuna delle falle, ma poi ce lo ritroviamo comunque in Europa, perché il trend, almeno dei prossimi anni, è un trend strutturale, non più congiunturale. Noi dobbiamo aspettarci comunque, per questioni demografiche, per questioni geografiche, per questioni geopolitiche e per questioni appunto diciamo di grand'angolo, come lei le ha definite, comunque dei flussi che arriveranno verso l'Europa. Quindi è inutile mettere la testa e il caso di dirlo sotto la sabbia in questo momento, per poi ritrovarci il problema più grande, certo, dopo. Anche perché, professore, i respingimenti che furono fatti al tempo del ministro Roberto Maroni furono poi condannati dalla Corte Europea perché sono illegali. Ricordiamo che non si può respingere un migrante prima di averlo identificato e di aver capito se abbia o meno diritto a entrare per espletare eventualmente richieste di asilo politico, eccetera, eccetera. Tra l'altro, professore, un sacco di messaggi, ovviamente è, come dire, uno dei temi che più scatena un tifo di pancia. Una delle cose più preoccupanti, io credo, che si stia creando, anche complice un panorama mediatico non esattamente, come dire, ortodosso, mettiamola così, una falsa alternativa tra noi e loro. Anche il lessico utilizzato è molto molto sconveniente, io credo. Questo noi e loro, questo ci rubano il lavoro, questo non riusciamo ad accogliere 20.000 persone. L'Unione Europea fa 500 milioni di abitanti. Davvero io sono rimasto esterefatto nel vedere il non accordo per accogliere 35.000 persone che hanno diritto, riconosciuto dal diritto internazionale, a entrare in Europa. Da cosa deriva questa alternativa, secondo lei? Perché si è creata questa o noi o loro? Perché c'è molta paura, soprattutto io non credo tanto che singolarmente le persone siano contrarie all'immigrazione, perché si intuisce il fatto, o almeno si dovrebbe intuire il fatto, che essendo un paese e un continente invecchiato abbiamo una necessità estrema di persone che si inseriscano nella parte centrale della piramide demografica, cioè nella parte lavorativa, contributiva, e che quindi paghi pensioni, paghi stipendi, insomma un paese che ormai è in declino demografico ha necessità. Questo è accaduto sempre storicamente, l'abbiamo fatto noi italiani per molto tempo anche negli Stati Uniti d'America, siamo partiti in milioni, ma senza ricorrere alla storia molto lontana, è un fatto strutturale della migrazione che serve appunto a, come dire, compensare momenti di mancanza di popolazione in certe fasce lavorative, in certi settori lavorativi. Però c'è un momento, in questo momento, di forte disorientamento, perché anche a livello politico non si riesce a decidere. Cosa accade? Che spesso i leader europei si riuniscono a Bruxelles, prendono delle decisioni anche di piccolissimo conto, ma poi quando rientrano in patria, di fronte, e come diceva lei, il problema mediatico, di fronte, sì, ai media, hanno paura di diciamo annunciare delle decisioni che sembrano impopolari. Il, sì, punto è che sono impopolari al momento, ma forse ci gioverebbero nel proseguio. Quello che sappiamo sicuramente è che le decisioni che sono state prese ultimamente, o forse le non decisioni, ci stanno portando solamente a rimandare il problema, e il problema si sta ingrossando come una slavina. Quindi questo noi e loro è semplicemente, come dire, semplicemente una parola complessa, è, sì, come dire, è un modo per rimandare il problema e per non capire invece che in sostanza c'è una possibilità di integrare queste persone, che a me non è un fatto semplice. Certo. Ma aggiungo, se posso, prego, che non è più un problema da ministro dell'interno del welfare, che è anche un problema di ordine interno e naturalmente di integrazione e di politiche di welfare, ma è soprattutto un problema di ministro degli esteri, e cioè bisogna capire che ci sono delle condizioni che sono totalmente mutate da 30-40 anni fa, l'Europa è mutata, sono cambiate alcune condizioni esterne, quelle che prima anticipavo, e quindi noi dobbiamo assolutamente confrontarci con situazioni esterne, solo che questo significa due cose: uno, una politica grande, alta a livello europeo, non come dire critica dell'Europa, ma critica dei governi europei che non riescono a essere coordinati, spesso per quella paura di prendere decisioni nei confronti delle popolazioni che spesso vengono appunto agitate per questioni di pancia più che di razio. E ci vogliono anche dei finanziamenti, ci vogliono grossi investimenti in questo senso, perché se noi vogliamo intervenire o quantomeno cercare di sanare alcune situazioni, come si dice in casa loro, che poi, come dire, questo non è molto semplice, sì, da farsi, per le forze, per le persone in campo, per l'accoglienza che si potrebbe avere in questi paesi, ci vogliono molti investimenti. Quindi è una situazione molto complicata che però bisognerà cominciare prima a ragionare. L'ultimo punto che volevo evidenziare, che lei in parte ha anticipato, velocissimo se riesce, professore. Sì, velocissimo. C'è una questione che riguarda anche l'identificazione dei rifugiati. Non c'è dubbio che bisogna rispettare la Convenzione di Ginevra. Anche la Convenzione di Ginevra del 1951, per presente nel tempo, è una convenzione fatta nel 1951 che riguardava solo gli europei e riguardava situazioni temporanee. Noi abbiamo molto, come ha accolto molte persone in quegli anni, ma naturalmente si trattava di situazioni temporanee. La situazione che ci si prospetta adesso è strutturale, quindi bisognerà cambiare anche l'ottica, certo, della visione di questo tipo di problemi. Certo, certo, su questo sono assolutamente d'accordo, e forse noi giornalisti dovremmo fare anche ammenda, perché utilizzare continuamente questi termini emergenza appunto non aiuta a risolvere il problema. Grazie mille al professor Alfonso Giordano della LUIS, buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro a lei. Allora, adesso il traffico, giusto? Incombe? Sì, allora andiamo a vedere come si viaggia sulle strade italiane. Poi di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Nessun luogo è lontano. E ben ritrovati per l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, in buona parte dedicata all'immigrazione, perché dopo i fatti di Calais, dopo le vostre sollecitazioni a spiegare e raccontare che come la Spagna ha gestito il fenomeno, allora siamo andati a ripercorrere anche quel pezzo di storia di Europa. C'è Luca da Cagliari che dice: ma veramente la Spagna respinge i migranti? Anche se UE e ONU criticano e protestano, loro se ne fregano, perché non lo dite? Lo abbiamo appena raccontato. E poi c'è invece un altro, Lidia, un'ascoltatrice, che dice: ma questa gente che ce l'ha con i migranti non ha mai avuto migranti in famiglia, sottolineando il fatto che molti italiani hanno avuto un passato di immigrazione. Ma sapete, tutte queste vicende sono vicende, come dire, che attengono all'aspetto più umano, se volete, all'aspetto di simpatia in senso etimologico, di compassione, ma qua stiamo cercando di fare un discorso basato sui numeri. Se si guarda i numeri, le pensioni di tanti anziani italiani sono pagati proprio dal lavoro degli immigrati, che sono solo l'8% in Italia. E anche chi tuona l'invasione evidentemente guarda male i numeri, perché 70.000 arrivi non sono un'invasione su una popolazione di 60 milioni di abitanti. Se guardiamo la popolazione europea, 500 milioni di abitanti, davvero pensiamo che 170.000 persone siano un'invasione? Lo ripeto, cerchiamo di stare sui numeri, perché parlare alla pancia è troppo facile, ma se vogliamo gestire il fenomeno dobbiamo invece evitare proprio le emozioni facili. Comunque ci torneremo sul tema immigrazione, assolutamente sì, perché vedo che continuate a scrivere. Allora, però adesso cambiamo argomento, perché vi abbiamo raccontato, vi abbiamo dato conto della visita del presidente Obama in Sud Sudan. Lui si è molto soffermato sulla situazione in Sud Sudan, perché c'è una guerra civile che dura da un anno e mezzo sotto il quasi silenzio dei media italiani, non ne parliamo, internazionali. Sapete che dopo un po' c'è una assuefazione, purtroppo, anche del lettore, dell'ascoltatore, a tragiche storie. Eppure la situazione è davvero, davvero grave. Allora ascoltiamo insieme questa fotografia del Sud Sudan. Il Sud Sudan, il più giovane paese africano, nasce nel luglio del 2011 a seguito di un referendum in cui il 99% della popolazione si è espresso in favore dell'indipendenza dal Sudan. nonostante l'abbondante presenza di petrolio, l'elemento cardine della sua economia, il giovane Stato rientra nel numero delle nazioni meno sviluppate al mondo. Su 11 milioni di abitanti, il tasso di alfabetizzazione raggiunge appena il 27%. La storia del Sudan prima della secessione è segnata dal perdurare di conflitti interni generati da divisioni sia etniche che religiose. L'indipendenza del Sud Sudan non ha però segnato la fine delle violenze. La crisi attualmente in corso è esplosa nel dicembre del 2013, quando il presidente sud-sudanese Salva Kiir ha accusato il suo ex vicepresidente Riek Machar di un complotto ai suoi danni. Non è chiaro se un colpo di Stato fosse effettivamente in atto, ma ciò che è certo è che il conflitto politico non ha tardato a trasformarsi in un nuovo conflitto etnico. Kiir appartiene infatti al gruppo etnico più numeroso del paese, i Dinka, mentre Machar ai Nuer, secondi per numeri. L'esercito si è spaccato, dando così inizio a una sanguinosa guerra civile. Ad oggi, circa 2 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, mentre i numeri dei morti continuano ad aumentare. Questa è la situazione che si vive a Giuba e dintorni, non soltanto, anche lo stato di Unity ad esempio è assolutamente sotto pressione. Per capire meglio di che situazione stiamo parlando, abbiamo in linea con noi Elisabetta D'Agostino del Comitato Collaborazione Medica, che è a Giuba in questo momento, responsabile paese. Elisabetta D'Agostino, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a tutti, salve. Allora, dobbiamo anche spiegare agli ascoltatori che c'è un leggero ritardo, quindi la pausa che ci stiamo prendendo è non voluta. Allora, Elisabetta, andiamo al sodo. Voi dove operate, in quali zone del Sud Sudan e quali emergenze principali dovete fronteggiare in questo momento? Il CCM lavora principalmente in due stati del Sud Sudan, che sono il Warrath e i Lakes. In particolare nei Lake State noi lavoriamo in due contee che si trovano sul Nilo e sono confinanti con il Jonglei e lo Unity, che sono due degli stati in conflitto. In questa zona, in particolare a Minkaman, che è un villaggio di poche decine di migliaia di abitanti, ci siamo ritrovati subito dopo l'inizio del conflitto una massiccia presenza di sfollati che tuttora si trovano lì e che sono in condizioni sostanzialmente disperate. Sì. Lei fra l'altro mi diceva, Elisabetta, quando ci siamo sentiti questa mattinata, che utilizzate molto anche le radio locali per fare un'attività di conoscenza sul territorio, per informare le persone che voi siete lì e che vi sono delle pratiche che in situazioni di emergenza come queste vanno attuate per salvaguardare la vita umana. Assolutamente sì, spesso e volentieri noi molti dei problemi che riscontriamo sono di mancanza, diciamo, di consapevolezza su quelli che sono sia i servizi sanitari sia i possibili rischi per la salute che possono arrivare rispetto a pratiche poco sane come utilizzare acqua non filtrata o non bollita, piuttosto che non allattare i bambini al feto per lungo periodo e altri, diciamo così, altri comportamenti direi quotidiani che possono però fare la differenza e salvare delle vite. In quest'ottica per noi le partnership con le radio locali sono determinanti perché ci permettono di diffondere messaggi chiave sia sui servizi che offriamo sia appunto, come dicevo, su quelli che possono essere comportamenti sanitari e nutrizionali corretti ad un numero molto ampio di popolazione, perché queste radio spesso lavorano diciamo così con due lingue, con l'inglese ma anche con le lingue locali. Certo. E quindi sono accessibili anche a chi non ha una scolarizzazione di minimo. Certo, e poi la radio è il mezzo più diffuso in Africa, questo lo andiamo ripetendo sempre. Elisabetta, stia con noi perché le faccio sentire un commento di Sky Wheeler, che è ricercatrice di Human Rights Watch di base in Sud Sudan a Juba, e siccome Human Rights Watch ha appena pubblicato il rapporto su quello che è accaduto, noi abbiamo sentito la fotografia del paese. A Sky Wheeler ho chiesto come va letta questa guerra civile, i cui effetti voi cercate di sanare. Elisabetta, è una lotta per il potere fra il presidente Salva Kiir e il suo ex vice, o vi sono anche dinamiche etniche? Ascoltiamo. This conflict is the result of a power struggle, primarily between two men. Salva Kiir, the president of South Sudan. E come sentite, dice, questo conflitto è una lotta di potere tra due uomini. Salva Kiir, il presidente del Sud Sudan, e l'ex vicepresidente Riek Machar. Salva Kiir appartiene alla tribù dei Dinka, mentre Riek Machar a quella dei Nuer. La lotta di potere tra questi due uomini, spiega la ricercatrice di Human Rights Watch, ha portato anche a omicidi e vendette di natura etnica. Quindi il conflitto, che è iniziato per una lotta di potere, è poi sfociato anche in una guerra tra le due etnie che questi due soggetti ovviamente rappresentano. Questo anche per restituire un quadro che è estremamente complicato, non è semplicemente una guerra civile, lo è, insomma, però c'è una lotta di potere, ci sono dinamiche etniche anche non facili da comprendere per noi occidentali. Invece per lei, Elisabetta D'Agostino, ho una piccola provocazione. Voi vi date un grande affare lì, state aiutando la popolazione e certamente lavorate anche in cooperazione, credo, no, con il Ministero della Sanità. Non esiste il rischio dietro l'angolo di una deresponsabilizzazione delle autorità locali nel momento in cui voi sostenete in maniera così corposa situazioni di emergenza? Ebbene, verrebbe da dire, ma come, il Ministero della Salute sud-sudanese dovrebbe fare di più, voi invece gli fornite un alibi? In realtà non è esattamente così. Il rischio, posso dire, è presente, soprattutto quando si parla di azioni di pura emergenza che sostituiscono in toto all'azione del Ministero della Salute. Quello che stiamo facendo noi, CICEM è un ONG di sviluppo, è un lavoro di più lungo periodo, per cui noi lavoriamo a stretto contatto con il Ministero della Salute sia a livello nazionale sia a livello di contea. Il che vuol dire che il nostro primo obiettivo è un lavoro di capacity building per fare in modo che i membri di queste istituzioni possano apprendere il più possibile e diventare nel tempo autonomo. È una sfida molto alta, perché in questo paese, almeno soprattutto quando questi programmi sono iniziati pochissimo prima del conflitto, era già molto difficile proprio per la mancanza di competenze sia tecniche sulla salute sia manageriali. Con il conflitto in atto la situazione è diventata ancora più complessa. Certo. Devo dire che nonostante questo dei passi avanti sono stati fatti e che siamo riusciti in qualche modo a creare una partnership reale ed effettiva che ci sta permettendo di rafforzare queste istituzioni e di lavorare insieme. Forse è ancora presto per lasciarli soli, ma in qualche modo la nostra azione, diciamo, li ha un pochettino aiutati piuttosto che... Certo. Metterli in difficoltà o prenderne il posto. Certo, grazie mille. Elisabetta D'Agostino di CCM, che opera in Sud Sudan e in questo momento sta cercando di alleviare quelli che sono gli effetti di una guerra civile che dura da un anno e mezzo. Elisabetta, buona giornata e buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Allora, nella chiacchierata, abbiamo ancora poco tempo, ma vi faccio sentire ancora la voce di Sky Wheeler. Nella chiacchierata che abbiamo fatto con l'analista di Human Rights Watch, abbiamo anche chiesto se una delle due fazioni avesse commesso più crimini di guerra, più reati l'una dell'altra. In realtà lei dice che sia governo che opposizione hanno commesso terribili crimini di guerra e potenzialmente tutti questi crimini potrebbero crescere nel conflitto. Ma allora che cosa fare? Che cosa chiede Human Rights Watch alla comunità internazionale, in particolare a quella africana più vicina, per arrivare alla fine del conflitto? There are peace negotiations currently underway, and of course South Sudanese are very much hoping that this will be successful. E Sky Wheeler risponde: ci sono dei colloqui di pace in corso, speriamo che possano avere successo e portare un accordo di pace. È importante che le persone responsabili di crimini di guerra terribili in questo conflitto vengano punite. Vogliamo vedere partire il meccanismo della giustizia e le investigazioni della Corte Penale Internazionale. Vogliamo anche vedere più sanzioni e divieti di espatrio, così che le persone che hanno commesso crimini terribili non possano compiere viaggi internazionali e usare i loro conti bancari internazionali, che devono essere quindi congelati. E questa era Sky Wheeler di Human Rights Watch, che ha da poco rilasciato appunto questo rapporto. Lei faceva riferimento a colloqui di pace in corso, che sono nella fattispecie in corso ad Addis Abeba. Noi ve ne daremo conto, perché ripeto, è una crisi dimenticata, molto poco raccontata, ma l'avete sentito, 2 milioni di sfollati quasi sotto il silenzio dei media, e la situazione sanitaria che avete sentito riferita da Elisabetta D'Agostino di CCM. E c'è Luca da Cagliari che interviene e dice: perché non si è ancora riuscito a risolvere i problemi in Sudan, eppure hanno il petrolio o altre risorse? L'Iran sì, il Sudan dimenticato. Beh, Il Sud Sudan nasce con delle criticità, delle problematicità, ormai ha compiuto 4 anni. E il Sud Sudan è ricchissimo di petrolio, ma non ha le infrastrutture per sfruttarlo, cosa che invece ha il governo di Khartoum, di Bashir. Da lì, insomma, il discorso diventerebbe lunghissimo, ma ci torneremo, gentilissimo Luca, da Cagliari, perché parleremo di Sud Sudan allorché i negoziati di Addis Abeba daranno segnali di risoluzione. Titoli di coda. E non mi resta che ringraziare Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli in redazione, Roberta Fisani che ha dato musica e ritmo a questa puntata, voi che siete stati all'ascolto. L'appuntamento è per le 23 di questa sera con la replica, alle 6.30 per domattina, sempre replica, alle 16 domani, quando nessun luogo di nuovo sarà lontano.